calare 10. E già ti ho visto, sì. Già ti ho visto, Luca, tu sei. Non sei Luca, vabbè, dimmelo tu il nome, com'è? CQ canale 10. Il tornado sto usando, perché era apparecchio tempo fermo. E a parte che c'hai tutti questi apparecchi, cazzo, a me mi si è crepato il 3009, cazzo, e non riesco a aggiustarlo. Addirittura, cazzo, è una versione, non è neanche un 3009, perché la scheda è di un Cobra addirittura. Dimmi dove da buttare giù, ragazzo. Vabbè, io non ci riesce a ripararlo. No, è un Cobra, non si trova il manuale di servizio di quella scheda, perché la ditta francese che l'ha costruito non lo dà, e quindi non si può contare, è un macello. Mi fa un innesco pauroso, non lo puoi usare praticamente. Era appena arrivato questo qui e sto usando adesso e mi si è crepato il 3009. Infatti ho dovuto mettere questo qui e non ha già. Ti fa un innesco, ma l'innesco è dove c'è l'attacco del microfono. Cioè, in pratica tu inserisci il microfono e dialoga dove esce e ti fa l'innesco. Sì, un innesco, ui, cazzo, un casino. Non mi interessa. E il rubino lo controllate, cazzo, quelle che ci sono nell'attacco del PL, del PL al microfono. Qui ci sono delle bobine e dei condensatori, mi parte tutto lì, parte. Se fa l'innesco l'audio ci deve essere per forza. Quindi il problema di quel quadratino dove ci sono delle bobine e ci sono dei condensatori. Aspetta che lo dici Adriano un attimo, lo dici un attimo, te lo dico io quando diglielo. Vabbè, devi controllare comunque lo spinotto del microfono che era lì, senz'altro. Parte tutto la lì, parte. Ale, digli la situazione del 3009. Allora, deve controllare Adriano lo spinotto, dove c'è lo spinotto del microfono, c'è quella specie di stampato, dove ci sono dei condensatori e delle bobinette, capito? E in pratica parte tutto da lì, parte. Capito? Se ti fa quel fischio vuol dire che c'è problema di parte da lì, non c'è altro coso. Se fosse stato un qualche altro difetto sarebbe stato a monte dall'altra parte. Ascolta, ma Bibi c'ha quel baracchino da Parigi. Sì, ha detto che non sono quelle perché le ha completamente staccate. In FM non lo fa, lo fa solo in AM quell'innesco. In FM non lo fa solamente in AM. Cazzo, AM, boh. Ascolta, ma il BP esce, c'è il Roger BP in quel barattino, giusto? Sì che c'è il Roger BP. Non si può togliere, mi sembra. No, non me la frega che devi toglierlo, no. Dimmi se esce solo in AM, quando agganci il baracchino, a parte il fischio, se esce il bip. Ha detto che c'è il bip e modula bene tutto, solo che fa quel fischio e buh, capito? E non si trova una minchia di coso, di manuale di servizio, perché non lo dà la ditta, non lo fa vedere, e quindi è un casino, è nella parte AM. Quello che hai detto tu l'aveva attaccato, lui tutto. Sarebbe stato troppo facile, ha detto Adriano. Allora, se mi piace, la questione dell'attacco del microfono non c'è da un cazzo, lì ci siamo. L'altra parte è la MC, l'LC, che... hai capito? Di controllare l'MC, l'LC, di abbassarlo, è come se ci avesse il mic che è a manetta in un microfono che non, ce l'è presente. Ti faccio un esempio, il microfono non si adatta, tanto per dire, quando tu lo inserisci e incomincia a uscire a fischi come fa il mio il Salerta, l'Echo Master attaccato alla Condes 4000, che si mette a fischiare, sembra un treno. Invece quando attacco nel tornado esce bene, hai capito? Devi controllare l'AMC, l'LC a vedere. In pratica fate tutto la mic gain, o provare al limite di abbassare il mic gain a zero e vedere se fischia lo stesso. Se non è questo, se non è quello, dove sono le cose, è questione di imperenza, cioè fischia per cioè, ma non si mette strano, cazzo, in uscita, cazzo, si mette a fischiare, cazzo, così non c'è mica stazionale, quindi mi sembra non lo so, aspetta, e pensare. Integrato, ricezione, quello là non c'entra niente. Ok, ma quella. Aspetta un attimo. Sentito, è Antonello. Sì, sono qua, dimmi. Gli stavo chiedendo se aveva sentito. Ah, ok. Io cosa chiedi di quella, vabbè. A me me lo fa con le 4000 un difetto del genere, perché è stato cambiato come si chiama il trim della DCMC, perché l'avevo bruciato un giorno, io non usciva più di radio, eccetera eccetera. Prova a farglielo controllare quei trim. È la prima cosa che ha fatto, ti stava chiamando ma non lo senti tu a lui, capito? L'hai, Antonè, tu non lo senti. No, non è che non mi sente, è che mi vuole sentire anche solo. Adesso l'ho sentito, no, c'ho un problema all'antenna, Adria, ho usato lineare da 800 watt e c'è l'antenna che a volte se ne scende di segnale a zero, fa da zero a normale, hai capito? Quando fa per appellare il vento, attacca e si stacca, secondo me ho fuso il PL, quello che c'è della mantola, non il PL esterno dove c'è il giro 113, ma quello interno, e quindi devo aver sciolto per forza quel cavo e poi conduce alla bobina, capito? Miri, e io sono buona domenica. Ma perché quel miri? Io l'ho conosciuto dal Mirivì, infatti, senza parlare, questo deve essere Alessio. Vabbè, credo che ce l'abbia BDB quattro toni, più questa qua. Buongiorno, la domenica a te, via. Più un logo l'avevo posto io. Guarda, se metto quello del salotto sembra che ti dica te la prendi in culo, ti dice. D'accordo, Secondo me è una cazzata quel baracchino lì, se fischia, più che questione di tono, vabbè, c'è qualcosa di strano, se il bip esce, è come se ci avesse il mic che non si adatta al tipo di microfono, roba del genere, capito? e lei me lo fa nel quello 4000, la stessa identico difetto mi fa. Infatti se lo attacco nel 3009 normale, quel microfono esce bene. Anche le cavute mi fa la stessa cosa mio. Se attacco io le comate le cavute solo a fischi esce, non esce nient'altro. Eppure stazionarie sono uno e uno, però il problema è questo, che quando fa tac tac tac tac che sparisce la ricezione, però cazzo qua me lo segna nel wattmeter, hai capito? Quindi secondo me il PL che di sopra, mi tocca salire sopra, controllarlo e mettere io su quel PL di coso, di Rospini, li chiamo io, quelli che ti dà Fusaro. Se non sei volo un cazzo, quando tu lo stagni è come se l'avessi stagnato, ti rimane lo stagno fuori, poi basta che scalda per appena te lo ritrovi direttamente sciolto per strada. Ha spento. Ok. Ascolta, metto che cobra cazzo quello, se non avrei pensato il coso nel 2009 l'avrebbe controllato Adriano, avrebbe fatto i parametri da uno all'altro, se sarebbe accorto un pochettino, adesso non lo so, quello mi sembra che molta gli SMD così, quelle distanze micro, quel tassisto micro, il discorso sarebbe inutile, è diverso cazzo come coso, ma forzato come il mio tornado si sarebbe arrivato subito, anche senza schema. Sì, ma ti sto dicendo che gli hanno cambiato la scheda a quel 3009, non è un 3009 vero e proprio, c'ha la scheda di un Cobra, dice, capito? L'ha scoperto perché i componenti sono completamente diversi dalla scheda del 3009 normale, capito? Ho capito. Che è capitato anche a me, è capitato con un Saturnecco, mi sono trovato, cazzo, che in pratica mi... No, con un Saturnecco. Con BV2001, quello a transistor, che non si riesce a capire che cazzo il BV2001 sia, perché cazzo è totalmente diverso dal BV2001 normale. Monta la scheda 550p, però è totalmente diversa dalla scheda che sono state fatte. Davvero, mi sono trovato questo cazzo di cosa di resistenza, non so se l'abbia modificato, chi l'abbia modificato questo lineare, quindi non riesco a farlo andare, capito? Non so se è il transistor, se sono c'è la resistenza che non è, io l'ho cambiata e l'ho... una le ho letto solo, quindi le ho preso e le ho cambiate tutte, le ho messe tutte uguali, ma intanto non esce lo stesso, non veniva di qua. Poi non puoi pilotarlo, ci vogliono 15-20 watt per poterlo pilotare, a 5 non spiri, è un casino, e ce lo fermo così, a un certo punto adesso spero di comprarmi un 550 normale oppure un B750 come gli altri, c'è il filo dentro e la panca. Che forse è l'unico modo, la scheda normale, quella che c'è adesso, poi non ce la butto nella cassola della mondezza. Addirittura c'è anche il modulatore diverso, non è quello a pettine che ha il 3009, è un altro modulatore piccolino, cazzo è un casino, è tutto diverso dal 3009, capito? Ha i componenti diversi. Radio. uscendo di radio. Oh, c'è portante, c'è uscendo di radio già. Ah, la portante stavano mettendo e ce la prendano in come di vostra ma che di armi venne gente guascia. Di fammi la fotografia di come si chiama e poi tu me la mandi a me su WhatsApp e così vedo un pochettino come è fatto all'interno. E adesso glielo dico. Mentre stavo con le macchine vecchie che ho io, monta gli stessi pezzi originali e si è fotolato, mica. Niente di strano, perché quei baracchini vecchi, 200 canali, i primi che sono usciti, montavano cose strane. Ma chi sta mettendo una portata? Col braccio del conto della gruppa, della scala aerea. Sì, quel guasto, quel mongoloide deve essere. Cazzo, non lo sentivo Alessio, perché metteva la portante lui. Con tutto rispetto per i popoloni, non fa posto mai, ma c'ha problemi psichiatrici. Evidentemente. Ah, Tonello, Popponio, capito qual è il problema? Questo cazzo è il 2009 dell'Egregio, non c'ha manco il modulatore, la prestazione di bassa frequenza, non è quel classico a pezzi, a 60.000 i cazzi vari. 50.000 bit è un cazzo, il modulatore ha 4, 5, 6, 7 bit completamente diverso, anche la scheda madre è diversa, quindi neanche volendo neanche si poteva adattare un modulatore di così là, casomai poi c'è un problema di modulatore. Ho capito. Vabbè, tu manda la foto a Natalino, poi Natalino me la manda a me. La foto dei componenti interni, capito? Poi io guardo, potrebbe essere anche il modello tipo President, cosa ne so io? Che montavo integrato audio AN, insomma me l'ha messo, fatto tutto strano, era. Con due viti, uno da parte e all'altra. Quindi, vabbè, magari qualcosa di non lo so, riesco a trovarla, cosa ne so io. Manda la foto a Natalino, poi Natalino la manda a me. E così vedo di trovare qualche cosa, là. Aspetta, Grigio, purtroppo lo sto seguendo un po' a tratti, appunto. Segnati questo numero così mi mandi la foto su WhatsApp. 371 162 3461. Thank you. nel posto del adesso sono cazzo di giocare potenziale, mandava la foto dello stampato interno dove sono i componenti, mi mandi Adriano, così almeno lo vedo, magari se c'è qualche baracchino che monta il componente uguale, cazzo, non faccio altro che darglielo a Tarino. Capiscito? No, ho capito un cazzo. No, ho capito proprio un attimo. Ma come la mia foto? Il segnale c'ho. Vabbè, ho lasciato a me dove c'è un ma il segnale come va? Ti stavo dicendo di farmi mandarmi la foto su WhatsApp di quel baracchino dove sono il lato componenti, hai capito? Così controllo io, siccome c'ho dei baracchini a pezzi qua, magari c'è il componente uguale che ti serve, non faccio altro che darlo a Natalino e poi tu ci pensi tu a metterglielo di lì, hai capito? Tutto lì era, non per altro. Ti ho copiato. Sì, io ti mando la scheda, lo pseudo schema di questo nuovo con nuovi componenti, che ha MOSFET, quello vecchio non era MOSFET. È la foto del cazzo del modulatore che non è a pettine, porca puttana. È quello che mi fa salire. Perché l'hanno cambiato? Ho capito. Cosa vuoi ti dica io? Dipende da quello che avevo costruito, che cazzo ne so io. Io baracchini di quelli modello nuovo, gli SMD ne ho due o tre ne ho di quelli lì, niente di strano che magari monta lo stesso componente, hai capito, faccio altro che tu me lo segni con un cerchio, il modulatore, cioè, dice che il modulatore è questo, eccetera, eccetera, ma che non gli porto gli apparecchi direttamente al Natalino, poi te rangi tu, vedi tu, no? Gli porto questi apparecchi SMD e poi li guardi tu, se non ti crea problemi, io li porto a Natalino, poi Natalino te li porto a te, intanto c'è, già sei di fronte. No! Ma cosa faccio con la ragazza lì? Esca fuori! Come vuoi tu me, io sono a tua disposizione, la mano te la posso dare, altro, cosa vuoi ti dica io? Io lo sai che ormai gli apparecchi sono tutti modello nuovo, sono SMD e non togliaio, cazzo. Quindi, poi c'è anche modello vecchio, eccetera, eccetera, solo vi mandi lo schema elettrico, quello che vuoi. Segnati il numero e così mi mandi tutto su WhatsApp. Ti ripeto il numero, ti ripeto, così segnato e vedi un pochettino tu. Allora, 371 162 3461, è l'unico telefono che funziona per il momento, ancora quello, l'altro è andato per i cazzi suoi, il Samsung, quello modello vecchio che ci avevi tu memorizzato, quindi ti mandi la foto direttamente lì su WhatsApp e poi vediamo un po', mi controllo tutti quegli apparecchi che ho stasera e vedo un po'. Copra, non copra, qualcosa si troverà, altro non ti posso dire. Non vuoi andare in FM? Ho capito. Antonio, vai in FM. Cazzo, c'è una propagazione allucinante, cazzo, adesso. Andiamo a sinistra, c'è qualche giorno, questa volta è buona, eh? Mangiamo qua. Guarda, non dire,